alcune indicazioni per quanto riguarda l'attività della biblioteca, che è un'istituzione che organizza queste iniziative, e di volta in volta ci sono anche varie associazioni, vari enti che collaborano con noi per la promozione della lettura e per favorire anche l'incontro con autori e autrici. Ogni settimana l'appuntamento qui è, non dico quasi tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, insomma ci troviamo in questa sala oppure nella sala della biblioteca al piano di sotto. Questa sera abbiamo con noi appunto Filippo Boni, e grazie appunto anche alla collaborazione con l'ANPI è possibile presentare il libro dedicato appunto all'ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Lo abbiamo, insomma, la fortuna di averlo qui con noi questa sera, e qui con noi appunto anche Bruno Bertoldi, protagonista di questa storia. Non ho il microfono, adesso me lo danno. Più di così non riesco. Prego. Ecco, la ricomincio da capo. Grazie Andrea. L'opera soldato, allora, come dice Guido Magheri, che questa è un'iniziativa della biblioteca in collaborazione con la sezione ANPI dell'Alto Adige, rappresentata anche Guido Magheri, suo presidente. Abbiamo però anche il presidente storico, l'onorevole Leonello Bertoldi, qui con noi, e tanti altri che la rappresentano. Questa associazione è molto attiva, abbiamo così partecipato volentieri al calendario delle iniziative messe in campo dall'ANPI, e questo ci ha portato qui questa sera a incontrare Filippo Boni, che è l'autore del libro Il sopravvissuto di Cefalonia, e dicevo appunto che è qui con noi straordinariamente appunto anche il protagonista, che è appunto Bruno Bertoldi, che saluto, è qui con noi e avremo poi occasione anche di sentire da lui. Voce, quelle che sono state poi le sue avventure e disavventure vissute in prima persona, di cui ancora oggi ha un vividissimo ricordo preciso. Tanto è vero che sia la RAI, e infatti saluto anche e ringrazio che è qui con noi la giornalista Floriana Gavazzi, già anni fa si erano occupati sia la RAI che anche l'ANPI e la Biblioteca Provinciale di raccogliere, di incontrare e di conoscere più da vicino Bruno Bertoldi. È stata un'esperienza straordinaria, lo dico subito, tanto è vero che abbiamo fatto anche una video intervista, e poi il libro, che è praticamente la trascrizione di questa video intervista, è stato stampato, distribuito, esaurito, ma abbiamo ancora un PDF che è scaricabile anche dal sito gratuitamente. Ed è quello che diciamo è la base, insomma, un po' raccoglie un po' tutte le notizie, anche se poi in realtà si rideva con Antonio Testini, che ci ha aiutato in questa avventura, non lo vedo, si rideva perché ogni volta che incontravamo Bruno Bertoldi sembrava dovessimo scrivere un nuovo libro, cioè c'erano più puntate, abbiamo voluto stringere, ed è un peccato perché di racconti e di episodi ce ne sono parecchi significativi. Approfitto sempre di questa occasione, prima di cedere la parola a Guido Magheri, per pubblicizzare anche quello che facciamo. Allora, la biblioteca, dicevo prima, organizza settimanalmente più incontri. Avremo infatti anche lunedì prossimo un incontro con Anita Rusciadelli, che presenterà il libro Raccontami una madre. Martedì alle ore 18, sempre in questa sala, invece avremo un incontro con Adelja Bar, che ci parlerà appunto dell'Estremo Oriente e della situazione geopolitica di oggi con le migrazioni e i risvolti nell'Europa, in particolare in Italia. Avremo poi mercoledì pomeriggio invece in biblioteca la presentazione alle ore 16 del libro dedicato al carnevale, usi e costumi nella zona alpina, scritto da Giovanni Kezic. E infine venerdì prossimo in questa sala alle ore 18 sempre un appuntamento col centro di psicosintesi e con un libro dedicato appunto a questo importante tema. Non scendo nel dettaglio, le cartoline sono qui a disposizione, se avete piacere di essere in contatto con la biblioteca, avere queste informazioni tempestivamente, basta iscriversi alla biblioteca ed è tutto un servizio gratuito. Lascio la parola però adesso a Guido Margheri, vi saluto, vi ringrazio della vostra presenza e ringrazio ancora i nostri ospiti Floriana Gavazzi e Filippo Boni. Grazie alla dottoressa Trevisan, grazie a tutta la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta che ha reso possibile questa iniziativa con la sua collaborazione, grazie ovviamente a Floriana Gavazzi che ha voluto essere con noi, è ormai una esperta nelle questioni di Bruno Bertoldi per tutta una serie di interviste che sono state fatte, grazie a Bruno della sua infinita pazienza di testimoniare ciò che ha vissuto in modo che tutti possano conoscere e in modo che possano anche prendere da lui quei valori positivi e quella forza vitale per riuscire anche nella realtà attuale a far sì che le cose vadano meglio. E grazie a Filippo Boni. Filippo Boni lo abbiamo scoperto attraverso questo libro, ma in realtà ha una storia che è importante ed è importante che si sia occupato di Bruno. Perché Filippo Boni si laurea nel 1980 con una tesi di laurea. Si laurea in scienze politiche. Si laurea in scienze politiche con una tesi sulle stragi naziste della Toscana. La Toscana è uno dei luoghi del nostro paese dove si sono svolte stragi compiute dai nazisti con la collaborazione dei repubblichini di Salò e in particolare adesso che ha scritto su questo, ha scritto tra l'altro un libro che si chiama Colpire la comunità, 4-11 luglio 44, le stragi naziste a Cavriglia, dove a Cavriglia le stragi naziste portarono la strage di 191 civili e tra l'altro è una di quelle dell'armadio della vergogna che noi bolzanini conosciamo benissimo perché come sapete il processo Seifert nasce da uno di quei fascicoli. Filippo Boni ha scritto anche, ed è bello che questo collegamento tra Bruno, la persona che ha fatto il suo dovere, che ha saputo dire i no anche a rischio della sua vita, è bello il collegamento con l'altro libro in cui Filippo Boni è famoso, ma che anche altri, che è quello dedicato agli uomini della scorta di Moro che morirono durante l'attentato delle Brigate Rosse. Gli uomini della scorta. Quindi la loro storia, la loro vita e il loro dare la vita per difendere lo Stato democratico. E quindi da questo punto di vista credo che stasera sarà interessante vedere il rapporto tra questo libro, che è ovviamente in forma di romanzo, e l'esperienza viva di Bruno. Abbiamo voluto anche, chi non ce l'ha lo può trovare a quel tavolo, dare due schede, una sulla divisione Acqui, perché si sa di che cosa si parla quando si parla del massacro di Cefalonia, e una sugli internati militari nei lager nazisti dello storico Oliva, perché si sappia, e non a caso questa è la quinta iniziativa nostra che in collaborazione con altri abbiamo dedicato al tema del giorno della memoria, 2020, che gli internati militari italiani non sono solo una sigla, sono 800.000 persone rinchiuse nei lager, ridotti a schiavi con varie situazioni drammatiche, chiamati sprezzantemente internati militari italiani perché non gli fossero riconosciuti i diritti della Convenzione di Ginevra, ridotti ancora peggio dalla cosiddetta civilizzazione operata forzatamente dalla Repubblica di Salò, eppure pronunciarono 3-4 volte no alla richiesta di arruolamento della Repubblica di Salò, che li avrebbe portati al di fuori dell'area. È una forma di resistenza che ha ridato dignità a loro innanzitutto, ma anche al nostro paese. Non solo non va dimenticata, ma non va dimenticata in particolare oggi. Grazie a tutte e tutti voi. Chi volesse comprare il libro può rivolgersi gentilmente al tavolino dove i nostri amici della libreria UBIT hanno garantito questo importante servizio anche oggi, e passo la parola alla nostra... Mi alzo. Grazie a voi che siete qui numerosi, spero che tutti abbiano trovato posto. E vi racconto un po' la storia della mia frequentazione di Bruno Bertoldi. L'ho conosciuto che era praticamente un ragazzino, perché aveva solo 95 anni e aveva presentato nella vecchia sede della biblioteca questo libro edito dalla biblioteca stessa. Mi ricordo, sì, mi ricordo, Memorie di Bruno Bertoldi a cura di Antonio Testini. E in quell'occasione gli feci un'intervista, gli ho detto: mi raccomando, breve, i tempi della televisione sono molto stringati. E lui parlò per circa 40-50 minuti. Da lì nacque un video di 5 minuti circa, che per la televisione sono anche abbastanza, insomma, in cui ho cercato di concentrare la sua storia, e si trova ancora su internet, su YouTube. Poi ci siamo rivisti in diverse occasioni, a volte anche un incontro che va in giro per la città, dalle sue parti, abita in via Dalmazia, va ancora in bicicletta, vive ancora da solo, nel frattempo ha compiuto 101 anni e si avvia a ottobre a compierne 102, perché lui, dovete sapere, che è nato il 23 ottobre del 1918, quindi quando l'impero austro-ungarico non era ancora dissolto, quando non era ancora finita per pochi giorni la prima guerra mondiale. E la sua storia è incredibile, e lui la racconta con una verve veramente appassionante. Ci siamo poi rivisti in occasione della festa per i suoi 100 anni nella sede attuale dell'AMPI. È stata una bella festa, è venuto anche il sindaco, insomma è stato un bel momento emozionante, e adesso ci rivediamo in questa occasione. Sono molto contenta che a Bruno Bertoldi sia stato dedicato un secondo volume, un romanzo, e chiederei subito a Filippo Boni di raccontarci perché ha avuto questa idea, come è venuto in contatto con la storia di Bruno Bertoldi e come ha concepito l'idea del romanzo. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui, grazie all'AMPI, grazie alla Biblioteca Provinciale che, come dire, ci ha permesso questo incontro. Per me è un grande onore tornare qui a Bolzano, tornare a vedere Bruno, ad abbracciarlo e in qualche modo a raccontarvi le ragioni che stanno alla base di questo viaggio, di questa storia. Io vivo in Toscana, lo avete sentito poco fa, in un piccolo paese che si chiama Mileto Valdarno, nel comune di Cabriglia, nel cuore della Toscana, fra Siena, Firenze ed Arezzo. La sera del 13 novembre del 1996, mio nonno, quando stava morendo, abbastanza giovane, 72 anni, per un cancro, mi lasciò sulla comò della sua stanza da letto una moneta da 2 lire. Era una moneta d'argento coniata nel 1916, e mi rivelò, io ero molto giovane, ero un ragazzo di 16 anni appunto, che quella moneta era in tasca di suo padre, che era morto, ucciso dai soldati tedeschi della Wehrmacht, dell'unità Hermann Göring, il 4 luglio del 1944, quando appunto, durante la ritirata aggressiva dei nazisti lungo la nostra penisola, nell'estate del 44 nella regione toscana furono mie tutti molti morti. Si parla oggi di 25.000 vittime civili su tutto il territorio italiano fra il 43 e il 45. Nel mio comune, il comune di Cavriglia, erano appunto 191. Fra quei 191 c'era anche un macellaio di 62 anni che era appunto il mio bisnonno, che si chiamava Annibale. Portava come portafortuna una moneta appunto da 2 lire in tasca. Quella mattina però non gli portò fortuna, perché era nascosto e credeva che suo figlio di 18 anni, che era mio nonno, fosse in piazza rastrellato dai nazisti, e quindi pensò che sarebbe stato un atto di vigliaccheria se lui fosse rimasto vivo e suo figlio 18enne fosse appunto morto. E quindi si presentò volontariamente di fronte al plotone, vide che di fronte a lui c'era una pira umana, perché i tedeschi avevano ucciso e bruciato già gran parte di quegli uomini, e quindi si lasciò volontariamente uccidere e morì. Mio nonno però era nascosto sui monti, era riuscito a sfuggire alla rappresaglia ed era sopravvissuto. Quella moneta, in qualche modo, dopo la morte di mio nonno, mi dette il via per iniziare un lungo viaggio che mi ha permesso di riscoprire le origini di quei massacri e nel contempo anche per riuscire a ritrovare i responsabili che per tanti anni, grazie anche alla riscoperta dell'Armadio della Vergogna di cui parlava poco fa il presidente dell'ANPI, sono stati ritrovati, sono state aperte delle inchieste. È nato così il mio primo libro, Colpire la comunità, ai prodromi in qualche modo dei massacri nazisti. Quindi sono sempre stato molto sensibile per ragioni di carattere familiare, ma anche per ragioni di carattere storico, perché comunque durante i miei studi universitari in storia contemporanea, poi successivamente ho approfondito questa tematica. Poi ho proseguito le mie ricerche sempre in Toscana, ma nell'ambito della storia mi sono imbattuto negli anni 70 e 3 anni fa ho raccontato la storia appunto degli uomini della scorta di Moro. 5 ragazzi, poco più che ragazzi, che la mattina del 16 marzo 1978, lo so, avete tutti quell'immagine di fronte delle 2 auto che si vanno tra via Fani e via Stresa a Roma, in qualche modo fermano le lancette del tempo della nostra storia e portano via la vita a quei 5 ragazzi. Ebbene, quella mattina, il 16 marzo del 78, in via Fani c'era un uomo tra i brigatisti che si chiamava Alessio Casimirri, non so se lo avete mai sentito nominare. Comunque era uno dei brigatisti che nel corso dei primi anni, in seguito al massacro della scorta, al rapimento e poi all'uccisione di Aldo Moro, non era stato rintracciato dagli inquirenti, è stato rintracciato soltanto in un secondo momento ed è latitante, è stato condannato in contumacia e è sfuggito più volte agli arresti ed è prima scomparso, ha fatto perdere le proprie tracce e poi lo hanno ritrovato in Nicaragua. Oggi vive a Managua, il cittadino nicaraguense, ormai da oltre 30 anni il governo italiano più volte, i vari governi italiani hanno più volte tentato di riportarlo in Italia, di estradarlo, ma non è stato possibile perché ormai è cittadino nicaraguense. Bene, che cosa c'entra Alessio Casimirri con Bruno Bertoldi, con il massacro di Cefalonia, con gli IMI, e qual è questo collegamento che in qualche modo fa tornare a riavvolgere il nastro del tempo dal 1978 alla Seconda Guerra Mondiale, la grande, straordinaria, drammatica e miracolosa avventura di Bruno? Alessio Casimirri era, ed è tutt'oggi, seppur suo padre sia scomparso, il figlio di uno dei vari portavoce di 4 papi, pensate, 4 papi, non uno solo. Quindi era un cittadino che viveva in Città del Vaticano e ha avuto una vita, fino a che non ha deciso di far parte delle Brigate Rosse, comunque una vita borghese, una vita importante, aveva studiato, poi a un certo punto decide di far parte delle Brigate Rosse, quindi in qualche modo tradisce anche quella che era la tradizione familiare e entra a far parte di una sinistra prima extraparlamentare e poi addirittura del terrorismo. Ecco, il padre di quell'uomo che oggi gestisce un ristorante che si chiama La Cueva del Gozzo e un altro che si chiama Magica Roma a Managua in Nicaragua e che non ha mai scontato neppure un giorno di carcere, che è un po' il Cesare Battisti di Via Fani, seppur non è possibile estradarlo, quindi è impossibile poterlo riportare in Italia, ecco, è l'uomo al quale si è ispirata la storia del capitano, forse lo ricorderete, del film, il mandolino del capitano. Quel film con Nicolas Cage e Penelope Cruz che una ventina d'anni fa circa comunque portò il drammatico massacro, la strage di Cefalonia fino ad Hollywood in qualche modo, quindi si riparlò di Cefalonia finalmente, possiamo dire, a livello mondiale. Fino a quegli anni si era parlato probabilmente molto molto poco, non nel mondo per niente, ma anche molto poco in Italia, di quel massacro oscuro che sta proprio agli albori. Siamo nell'immediata settimana successiva all'armistizio della resistenza italiana, della lotta di liberazione, quindi in qualche modo è il primo vero massacro che i nazisti compiono ai danni di italiani. A Cefalonia si tratta di militari, ovviamente. Successivamente, dopo che firmiamo l'armistizio, l'esercito nazista ci invade e in qualche modo i massacri iniziano a diventare anche ai danni soprattutto della popolazione civile, tra quelli c'era mio nonno. È per questo che ho deciso di partire per un nuovo viaggio. Il primo viaggio l'ho fatto a lungo in Inghilterra, studiando gli archivi inglesi e cercando di analizzare i massacri della mia terra in qualche modo, che mi legano al mio sangue e alle mie radici. Dall'altra parte poi ho fatto un lungo viaggio per ritrovare la storia degli uomini e delle famiglie della scorta di Aldo Moro, che per 40 anni sono stati dimenticati completamente. Per 40 anni abbiamo parlato di loro, dei loro volti, ma di Aldo Moro soprattutto. Quegli uomini erano stati cancellati dalla storia. E poi mi sono rimesso in viaggio, perché una mattina, dopo aver appreso questo espediente di Alessio Casimirri, ho visto sul giornale che Bruno Bertoldi compiva 100 anni, quindi era l'autunno del 2018 e sono partito per Bolzano e gli ho telefonato, gli ho chiesto se aveva voglia di parlare insieme a me per qualche giorno. Io sono rimasto qua per alcuni giorni e abbiamo parlato a lungo, più volte poi nel corso dei mesi successivi, ed è nato l'ultimo sopravvissuto di Cefalonia, un romanzo che racconta la vita di un uomo straordinario. Sembra proprio che Bruno Bertoldi sia l'ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Le ricerche in atto attestano che lui è proprio l'ultimo testimone ancora presente tra di noi. E vorrei chiedere a Filippo Boni, prima di dare la parola a Bruno, che tipo di scelta narrativa ha fatto, perché so che il libro è in parte una ricostruzione fedele delle memorie di Bruno Bertoldi, che erano già state raccolte, sia pure in maniera sintetica, diciamo, nel primo libro, però c'è anche una parte romanzata, quindi vorrei che illustrasse un pochino le sue scelte stilistiche. Sì, devo dire innanzitutto che questo libro è fondamentale, mi ricordo, realizzato dalla biblioteca, dal professor Testini, perché comunque è alla base della vicenda di Bruno Bertoldi e la racconta praticamente tutta. L'ultimo sopravvissuto di Cefalonia cerca in qualche modo di ricostruire quegli anni della vita di Bruno Bertoldi utilizzando da una parte le fonti storiche, dall'altra un linguaggio narrativo che possa permettere anche alle nuove generazioni e non soltanto agli storici di professione di poter avvicinarsi a un tema così anche spinoso, dall'altra parte anche delicato, che spesso è fuori anche dai programmi scolastici. La mira qual è? La mira è cercare di entrare nelle mani dei giovani, dei ragazzi, di coloro che non sanno, di coloro che sono completamente inconsapevoli e che non hanno neppure l'opportunità di leggere in un sussidiario, neppure in un libro di storia di terza media o di quinta superiore, quella che è la vicenda di Cefalonia, ma anche i massacri nazisti in generale sono una materia ancora oggi oscura. E quindi abbiamo stabilito di utilizzare un linguaggio narrativo, divulgativo, che adoperasse anche degli espedienti di carattere romanzesco, che potessero permettere anche a coloro che leggono di potersi immedesimare al meglio all'interno della storia di Bruno. La storia di Bruno che nasce per me nell'attimo del suo ritorno, in quella sorta di resurrezione, quando lui, ormai bruco, ormai divenuto una sorta di larva umana, la notte di Natale del 25 dicembre 1945, seppellito da quel cumulo di neve di 1,50 m nella notte scura di Castelnuovo Valsugana, in quella piccolissima stazione, viene ritrovato con quel cappotto liso, col bacco, quella spina, con la falce e il martello, da due operai che si recano nella stazione per attaccare delle targhe a dei vagoni che stanno per partire. E da quel momento, in qualche modo, quel bruco diventa farfalla, una farfalla che ancora oggi vola. E pensate che pochi giorni fa Liliane Segre, parlando al Parlamento europeo, ha detto che bisogna essere farfalle che vanno al di là del filo spinato. Voi credo che abbiate la più bella farfalla che noi abbiamo in Italia, che si chiama il bruco. In riferimento ai giovani, mi ha fatto pensare che Bruno Bertoldi è uno straordinario comunicatore con i giovani, perché è andato in tantissime scuole e ogni volta che incontra gli studenti è proprio una fascinazione, perché lui davvero li conquista e crea una simpatia e una empatia umana fortissima. Allora chiedo a Bruno di venire qui e di raccontarci tutte le volte che miracolosamente è scampato alla sorte, che credo siano quasi inenarrabili, insomma. Prego Bruno, facciamo sedere. Allora Bruno, cominciamo da Cefalonia. Intanto buonasera a tutti, Cominciamo da Cefalonia, dall'8 settembre 1943. Quando? Quando è sfuggito alla prima retata, diciamo. L'8 settembre, quando che gli ha preso Mussolini. Sì, certo. Beh, là sull'isola delle isole ioniche era la divisione Acqui che aveva il compito di presidiare queste isole. E le isole ioniche sono di fronte alla Puglia, che le divide tra il mare Egeo e il mare Ionio, e noi della divisione Acqui siamo stati mandati là per tamponare i greci, perché noi dovevamo rompere le reni ai greci, invece i greci ce l'hanno rotte a noi. Hanno fatto un'offensiva, hanno buttato l'esercito italiano, è stato buttato 20 km dentro nell'Albania. Là, la divisione Acqui è stata mandata come cugno per bloccare i greci. Allora noi qua ci hanno mobilitati, messi sul treno, portati a Ancona. Io ero sottufficiale di automobilista. Prima di andare via qua, io ero stato arruolato alla divisione Acqui, che stavano facendo la Merano, il comando. Mi mandarono là, mi dissero cosa dovevo fare. Mi destinarono ad andare a Casalmaggiore, perché a Casalmaggiore c'era un deposito di automezzi, là avrei dovuto caricare questi automezzi e poi partire. Dove andare io non lo sapevo. Sì. Comunque caricai gli automezzi, partimmo col treno, arriviamo a Ancona, ci caricarono sul piroscafo e cominciarono a portare la divisione Acqui in territorio albanese, perché i greci avevano preso una ventina di chilometri vicino a Ancona, in Albania. Sì. Però se i greci avessero insistito, noi dovevamo scappare da là, venivamo circondati o scappare dal mare e se no darci prigionieri. e invece i gatti si sono fermati, la divisione acqui è riuscita a tamponare e già siamo arrivati nel dicembre del 39, dicembre del 39, perché il 40, Natale del 40 io ero in Albania. Sì, sì, eravamo già in Albania. Con la divisione però l'Italia acqui entra in guerra nel giugno del 40. Quindi, ma non importa, le date non importano. Io direi dicembre del 40. Dicembre del 40, ok. 40 del 40, sì. Io sì. Bene, dobbiamo un pochino sorvolare perché sì. Bruno racconterebbe, la storia è lunga, però sì. Io direi di arrivare proprio al momento dell'armistizio, sì. Quando improvvisamente i tedeschi da alleati diventano, Fadonia, nemici, sì. Diventano nemici. E lì vi chiedono di arrendervi, di consegnare le armi. Perché noi sull'isola Ionica non avevamo mai visto un tedesco. I tedeschi arrivarono il 15 di agosto, una nave con due battaglioni di granatieri di fortezza. Quindi si imbarcarono e si presero loro, dissero che dovevano venire a presidiare le isole. Ecco. Sì. Dopodiché arriva l'8 settembre, arriva l'armistizio, sì. Di Badoglio. E voi vi trovate improvvisamente... I tedeschi volevano le armi nostre. Esatto. Noi le armi non le abbiamo volute consegnare e allora abbiamo ingaggiato una battaglia. Il giorno 15 un capitano dell'artiglieria diede ordine, sorpassando gli ordini del generale, diede ordine alle batterie di caricare i pezzi, spararono, affondarono due navi, due zattere, una riuscì a scappare. Questo era il 15 settembre 1943. Sì. Ma la mattina, nel pomeriggio, verso le tre e mezza, arrivarono una trentina di Stukas e in 10 minuti distrussero la città. Come ha fatto a salvarsi in quell'occasione? I greci, i contadini greci l'hanno aiutata, no? No, io a Cefalonia mi sono salvato perché mi sono trovato nel comando perché la divisione Acqui era comandata da due generali. C'era un generale di divisione che si chiamava Gandin e un generale di brigata che facevo l'autista io, quei 7 giorni, siccome non c'erano autisti, e allora io mi avevo impiegato, non avevo preso questo compito. E di notte portavo in giro il generale a ispezionare per 7 giorni. E quando noi finimmo quel giorno stesso che bombardarono, il giorno dopo incominciò la battaglia. I tedeschi il primo e il secondo giorno fecero dei prigionieri, noi italiani, perché si faceva il conto. Noi eravamo 11.500, i tedeschi erano 2.000, dicevano beh, arriviamo, li accerchiamo e li prendiamo subito. Invece purtroppo abbiamo preso noi le batoste da loro, sì. Perché loro hanno continuato in terraferma, avevano già occupato tutto, aeroporti, avevano più di 300.000 soldati ormai messi là. Noi ci siamo trovati soli, isolati. Abbiamo combattuto per 7 giorni e poi abbiamo dovuto mettere su bandiera bianca. E come fa Bruno Bertoldi a salvarsi? Adesso bisogna tornare indietro. Io a città nel 1937 ero soldato a Verona, ho fatto un corso di allievi sottufficiali e mi sono trovato ad amicizia con uno di Bolzano, un certo Luis Koffler, che abitava sopra Santa Maddalena lì. Siamo diventati amici. Da quel momento lui, qua Mussolini aveva fatto un accordo col Duce che quelli che erano tedeschi potevano andare via. Le opzioni, genitori, famose opzioni. Sì, i genitori di lui andarono via e gli dissero che qua in Italia avevano il figlio che faceva il soldato italiano, perché allora era obbligatorio fare 18 mesi sotto l'esercito italiano. E lui, come siete qua a Bolzano, era Italia, era soldato con noi, con me. Facevamo questo turno, dopo un po' di giorni, la mattina, non lo vidi più in officina, chiesi, e mi dissero che alla sera erano venuti dei borghesi, avevano parlato col comandante della caserma, aveva messo giù la divisa italiana, lo vestirono da borghese e lo portarono via. Questo era la primavera del 1938. Doveva essere o febbraio o marzo, comunque in quella era primavera. Ecco, dopo questo lui Scofler se lo ritrova, perché bisogna un po' saltare la tappa, allora, se lo ritrova a Cefalonia come nemico, giusto? Sì, a Cefalonia noi combattemmo 7 giorni, dopo il 7° giorno mettiamo su bandiera bianca perché non ce la facevamo più. Allora là il comando, dove era questo generale mio, io lo portavo tutte le mattine in questa posizione dove avevamo questo tunnel, però io dentro non andavo mai perché avevo paura degli aerei, avevo la macchina da nascondere perché se me la vedevano la bombardavano, e la mettevo sotto gli olivi una 50 metri prima di arrivare al comando, e mi nascondevo dietro un muro. Quella mattina là che il generale decise di mettere su bandiera bianca, che venne sulla porta del tunnel e gridò: autista, prendi la macchina che scappiamo. Dove volevo scappare non lo so, perché eravamo su un'isola, però io saltai fuori da questo muro, incominciai la strada per andare a prendere la macchina, e mi bloccarono una pattuglia di tedeschi, erano in 3-2 sulle mani, io non scappai. Io invece che scappare, perché se io scappo, quello mi ammazza, perché aveva già il parapetto, loro avevano il machine pistole già, noi avevamo il nostro moschetto che bisognava cric croc avanti e indietro per caricare, ma loro erano già armati col machine pistole. Allora di questi 3, il primo davanti, che sarebbe stato questo Koffler, aveva il machine pistole, comandava la pattuglia. L'ordine era di non far prigionieri, perciò io ero destinato a dover morire. Invece ho avuto il coraggio, invece che scappare, ho alzato le mani e gli sono andato contro. E io capivo che gli altri 2 di dietro gli continuavano a dire: spara, coppelo. E quello non aveva il coraggio. E quando siamo arrivati vicini, lui mi chiese a me di dove ero. E allora io gli dico: sono un trentino dell'Alto Adige. Brutto porco italiano, mi ha detto, ci hai anche sparato contro. Mi diede 2 calci e mi dice: scappa. Ed era lui Scofler. Io faccio 7 chilometri di corsa, arrivai nel paese di Cheremies, dove avevo il mio alloggio, e ai greci raccontai cosa era successo. I greci mi presero, mi spogliarono, mi vestirono da borghese, mi misero in una cantina e mi dissero: tu stai qua che noi ti pensiamo noi a darti da mangiare. E lì cominciai la vita del prigioniero di guerra. Ecco, sì. Dobbiamo un po' sorvolare perché sarebbe veramente una straordinaria avventura raccontare tutto, però io direi che raccontiamo qualcosa dei gulag russi, perché lui attraverso una serie di disavventure viene imbarcato su una nave, scappa anche i tedeschi. I tedeschi per 2 volte decisero perché continuavano a voler che io firmassi, siccome sono nato in Austria, battezzato in Austria, non mi perdonavano di essere un prigioniero di guerra. E pretendevano che io vestissi la divisa tedesca. Invece mi insistevo che io volevo fare il prigioniero di guerra. Allora per 2 volte mi portarono al porto, mi misero sulla nave, mi tirarono giù, la nave partì e andava a fondo. 2 navi. La terza mi misero su e passai e andai a Atene. Atene mi presero, mi misero su un treno e mi portarono a Leopoli. In Ucraina. Sì. A Leopoli ci chiusero dentro in un campo di concentramento. Durante questo periodo io feci amicizia con un certo Bonatta e un certo Ribaga di Sopra Tiarno, un certo Bulgarelli. Eravamo in 4. Questi 4 trentini siamo andati per i tedeschi, ci hanno presi dal campo e ci hanno portati a lavorare, a far manutenzione a Minsk in Bielorussia. Lì siamo stati fino alla fine di 6 mesi, verso febbraio del 44, sì. Questi tedeschi presero l'ordine di ritirata. perché aveva incominciato l'esercito russo. La sua avanzata. Allora eravamo 40 operai, il comandante tedesco ci disse che aveva l'ordine di fucilarci, perché portare dietro i prigionieri non serviva. E invece lui, il comandante, era un antifascista, e andò d'accordo con me e mi disse: io sull'ultimo vagone che dovrei caricarvi per portarvi in un posto a fucilare, lascio aperto e scappate. E lì un'altra volta sopravvive miracolosamente. Lì ci siamo trovati alla macchia. Alla macchia. Una mattina, in Polonia, una no? mattina ci svegliamo che dormivamo sotto i cespugli. Siamo circondati dai partigiani polacchi. Allora, Tarremani, italiani, Rischio Fangler, prigionieri di guerra, però non ci credevano. Io ero biondo, gli altri dicevano, no, poveretti, ma io ero biondo e mi dicevano: tu, Niemske, caput. Perché pensavano fosse tedesco, perché era biondo con gli occhi azzurri. Perché i russi ammazzavano tutti quelli che trovavano, quando era un tedesco lo ammazzavano. E io ho dovuto piangere diverse volte inginocchiato a dirle: ma guardate che sono un prigioniero di guerra, avevo il numero scritto qua. E comunque me la sono cavata anche là. Ecco. Dopo arriva a Tambov. Oh. E lì cominciano i dolori. Tambov fu un inferno in terra. Sì, là eravamo 4.500, nel giro di 6-7 mesi siamo rimasti in 350, gli altri sono morti tutti là, sono tutti seppelliti là sotto, quelli italiani. Poi loro avevano un sistema, i russi, non è come i tedeschi che là troviamo i reticolati, i forni crematori. In Russia, come eliminavano un campo, distruggevano tutto, e in quel posto adesso è un bosco. Perché io ho conosciuto delle donne qua che fanno le badanti di quelle zone, sì. E mi hanno detto che dove era il campo di prigionia adesso è un bosco, e sotto ci sono rimasti tutti i morti. Quei pochi che siamo rimasti, circa 300, ci hanno presi da Tambov e ci hanno portati nel Turkestan. Abbiamo quindi fatto un mese di viaggio. Ancora più lontano, anziché avvicinarsi a casa, si allontana sempre di più. A lavorare il cotone. A lavorare, cioè, il cotone. Là ho sopravvissuto mangiando rane, perché di rane ce n'erano rane. Tante, quelle le conoscevo, da mangiare non ce ne davano, e io mangiavo rane, ne ho mangiate anche 10 in un giorno, crude, perché non si poteva cuocere. Una cosa che dice sempre Bruno Bertoldi è che i russi erano peggio dei nazisti. I russi erano peggio, sì, dei nazisti. Io l'ho sempre detto. Il criminale Stalin è stato peggio di Hitler, perché io ho parlato anche con delle russe, e qualche cosa ne sanno anche loro stessi. A quei tempi là non si poteva, gli ammazzava, bisognava essere con lui, e se no era sparito, via. Sì. Con gli stessi russi, molto crudi. Hanno adottato quel sistema di distruggere i campi. E non c'è più non niente. Ci sono testimonianze. Non c'è più niente. Sì. Mentre invece, proprio in questi giorni, i ragazzi del treno della memoria sono stati ad Auschwitz, a Cracovia, a Birkenau, e hanno potuto vedere. Là ci sono stato anch'io a vedere. Ecco. Sì. Arriviamo al viaggio del ritorno, a cui faceva riferimento anche Alessio Boni, il momento della risurrezione. Era il 13 ottobre del 1945. Quindi la guerra era già finita da un bel po', da diversi mesi. Stavamo raccogliendo il cotone, perché il cotone è una pianta che fa dei batuffoli. Ci avevano dato dei sacchi di juta, dovevamo riempire due sacchi, erano delle donne che poi pesavano, per prendere un pezzo di pane. Se non facevi quello che dicevano loro, il pane non lo prendevi. Comunque là stamattina eravamo fuori a raccogliere il cotone e vediamo che arriva uno a cavallo e gridava: italianski, davai doma, italiani, andate a casa. Dopo 2 anni e mezzo io non pensavo neanche più di arrivare a casa, perché ormai non si pensava più a niente, era solo la sopravvivenza in quelle condizioni, certo. Perché dei 4 poi uno morì durante il tragitto da Minsk a Mosca, e un altro, un certo Bonatta, morì nel campo di Tambov, quello mi morì sulle braccia. perché prima di morire mi disse che aveva un bambino che non l'aveva conosciuto, perché lui era in Albania con me, il bambino era nato, non ha potuto avere la licenza, perciò il figlio era venuto grande, lui stava morendo e non lo conosceva. Allora prima di morire mi diede l'indirizzo e io dopo ho trovato la moglie, gli ho spiegato, e il figlio, ho anche una foto qua del figlio, siamo diventati amici, perché gli ho raccontato come è morto suo papà, che pensate, lui non sapeva, non lo sapeva. Quanto sia prezioso per un figlio avere almeno il racconto del padre, no? Non lo ha mai conosciuto, ma almeno ha un racconto. E la cosa bella è che tutti i Natali si trovano e c'è ancora un contatto con questo figlio. Sì. Di Bonato. Adesso l'anno scorso non è venuto perché anche lui ha cominciato a accusare gli anni e mi telefona continuamente. Ecco, e poi arriva finalmente a Vienna, a Innsbruck, sì. Sale sul treno, no? Italianski Doma, italiani a casa, sale sul treno e lì combatte con i pidocchi. E con i morti, e con i morti, perché non avevamo un filo di paglia dentro il carro bestiame. Allora, quando uno moriva, che il treno andava e si fermava, che i russi chiedevano scolco caput, quanti morti ce l'hai dentro? Noi prima di quello che moriva con noi dentro il carro, lì gli avevamo quei quattro stracci che aveva addosso, lo mettevamo dietro il bordo del cannone, del vagone, e poggiavamo sulla testa, perché serviva da cuscino, perché non avevamo altro, veniva a dormire in piedi con i cavalli, là così appoggiati al carro. E finalmente Vienna, Innsbruck. Siamo partiti dal 13 ottobre del 1945 e siamo arrivati a Vienna, perché allora Vienna era occupata dai quattro belligeranti che avevano vinto la guerra. I russi arrivavamo là in quelle condizioni che eravamo, due mesi chiusi in un carro bestiame, senza lavarci, senza farci la barba, pieni di pidocchi. E andarono a avvisare i russi, gli americani, e gli dissero: guardate che là c'è un treno che avete su degli italiani, ve li prendete in consegna. Arrivò una pattuglia di americani, aprirono i primi carri, presero paura, chiusero le case, ci impedirono di scendere, e dopo qualche ora arrivarono con dei soldati vestiti di amianto con la pompa di DDT sulla schiena, ci chiusero gli occhi, il naso e la bocca e ci riempirono di DDT come le mummie, tutto quanto, fino che sono venuti a fare le prove e hanno visto che i pidocchi erano morti, allora ci hanno tirati giù, sì. E da Vienna ci portarono a Innsbruck. A Innsbruck ci misero in un binario morto e in pochi giorni ci tagliarono le barbe, i capelli, ci buttarono via tutti quei quattro stracci che avevamo, ci diedero, cominciarono a darci da mangiare, là morirono gente perché dal tanto mangiare si moriva, perché come, era talmente tanta fame. Auschwitz, no? Ci sbarbarono, ci vestirono e poi ci misero sul treno e ci dissero che ci portavano a casa. Allora arriviamo al Brennero, quando mi chiesero a me da dove ero e gli dissi che ero di un Valsugano, perciò a Trento avrei dovuto smontare. Invece durante il viaggio venne questo questi ordini che aveva e mi dice: te sei Bertoldi? Sì, te però non so, senti, a Trento devi andare fino a Pescantina, perché a Pescantina devi subire degli interrogatori. Allora così mi portarono a Pescantina, mi tennero là tre giorni e poi un bel momento mi dice: adesso puoi andartene a casa. Perché io quando raccontavo queste cose a Pescantina non ci credevano e mi dicevano che specialmente come ci trattarono i russi, e mi dicevano che questo a loro non interessava, e allora noi incominciamo a essere un po' a non parlare più, perché avevamo paura, certo. Perché pure io fui anche nel mio paese dai comunisti stessi, fui invitato a non parlare, a star zitto. Perciò gli anni passarono, io mi tenni dentro le mie cose che avevo provato e finalmente dopo un po' di anni abbiamo incominciato. Però da quel che abbiamo incominciato sicuri è stato da quel momento che io sono andato in Grecia col primo con Ciampi. Quando Ciampi, comandava con Ciampi, presidente Ciampi. Perché io fui invitato da Ciampi e fui andato con lui. Fermo il giro dell'isola, no? Là fece un discorso e disse che noi potevamo dire di essere stati i primi combattimenti che abbiamo combattuto i tedeschi. La prima forma di resistenza. E allora abbiamo cominciato a parlare, sì. Ecco, come è arrivato a Castelnuovo? Allora, la pescatina mi mettono sul treno. Sentiamolo però da lui che è un'altra storia. A Trento mi tirano giù, la stazione di Trento mi ricordo era tutta bombardata, c'erano in piedi solo le colonne, posto da sederci non ce n'era, io non ero capace di camminare. Allora questi due ferrovieri che avevano il compito di accompagnarmi mi postarono lì a una colonna per terra, seduto giù come un poveraccio, la gente passava e mi guardava, io avevo un colbacco con sulla faccia il martello qua, chissà cosa pensavano, da dove sto poveraccio qua cosa fa. A un certo momento parte il treno, viene il ferroviere e mi fa: oh Bertoldi, svegliati, adesso su che il treno parte. Dico: oh, ma camminare, io non cammino. Allora ti aiutiamo, viene un altro ferroviere, mi presero, perché avevo 28 anni, pesavo 40 kg e non ero mica più capace di camminare, e mi misero sul treno. Il treno a quei tempi, i vagoni avevano 3 gradini, ma sai che era un problema. Mi misero lì sulla seduto e quando arrivai a Castelnuovo mi viene e mi dice: oh, guarda che qua devi scendere, beh, aiutami. Allora il treno si ferma, quello mi prende per il bavero qua, mi tiene, perché il treno arrivava alle 9:30 la sera a Castelnuovo, una stazione piccola, il paese non scende nessuno, era dicembre, 80 cm di neve, 10 gradi sotto zero, quello mi tiene un po', e poi ma l'ultimo gradino mi è mollato. Mi sono girato così, sono caduto e sono andato a finire in un mucchio di neve. E là mi sono messo a piangere, perché i ferrovieri, lui era convinto che io fossi sceso e arrivato giù, l'ha detto via, il treno partì e io rimasi là. Ero lì che piangevo, alle 10 di sera, in quelle condizioni, senza capace di camminare. In paese c'è una trattoria che si chiama, c'è ancora, il vapore. Là, sti 4 vecchietti che lavoravano in una segheria là del paese, il capo mi chiese a uno: ma quei 2 vagoni che abbiamo caricato ieri stamattina, hai messo sull'etichetta? Io no, fa. Pianta lì che andiamo a mettere sull'etichetta, erano le 10 di sera, vengono giù in stazione, io piangevo, uno dei due, più piccolo si chiamava Giglio, gli dice a quell'altro che si chiamava Guadagnini: fermati un po' che c'è qualcuno che si lamenta qua intorno, perché era buio, pesto. Quello era un po' più maggiore, gli fa: ma cosa vuoi che sia? Sarà qualche animale che si lamenta. Allora passano, vanno a mettere sulle etichette, tornano indietro, quello che aveva sentito prima si ferma un'altra volta, gli dice: adesso fermati che io qua voglio ispezionare, perché qua c'è qualcuno qua intorno. Allora fumavo anche la pipa, prende fuori, c'ha quei fiammiferi lunghi che avevano allora, accende il fiammifero e comincia a girare il buio e mi passa, io ero così nella neve con il colbacco qua, col faccio martello, ah, come ha visto la faccio martello fa: ostia, c'è qua un russo. Allora quell'altro gli dice: ma cosa vuoi che sia un russo? Io ho capito e gli dico: ma che russo? Io sono il figlio di Bertoldi. Allora quello si ferma un po' e poi fa: figlio di Bertoldi? Quell'altro più grande: ma cosa vuoi crederti che sia il figlio? È morto che 2 anni in Grecia. E gli dice a quell'altro. E allora io ho sentito, gli ho detto: no, no, non sono morto, sono purtroppo, sono mio ancora, qua vivo. Allora vengono là, mi guardano, fa: dai, alzati in piedi che andiamo, ma non ce la facciamo camminare, e ci porto. ma tutti porto, quello era un po' robusto, io mi sono, lui si è caso, mi sono ciappato la tracolla e mi ha portato nella trattoria al vapore, che c'è ancora, e si ricordano di questo fatto. Mi hanno portato là, mi hanno messo una sedia e siccome non stavo in piedi, mi hanno seduto giù e là hanno cominciato a guardarmi. Nel giro di 10 minuti c'era tutto il paese là. Incredibile, e la cosa ancora più incredibile è che riesce persino a farci ridere, pur essendo così drammatica, e questo per dirvi la sua vitalità. Grazie. E se io vi dicessi che ho lavorato sotto i tedeschi 6 mesi e dopo 50 anni i tedeschi mi hanno ricompensato con 2500 euro, ecco, per quei 6 mesi che ho lavorato. Almeno quello, almeno quello. Sì, sì. Grazie Bruno. Non volevo neanche credere. Eppure il nome e cognome preciso, che se ero vivo potevo incassare, e se no dovevano tornare a loro. Bravo, bravo, grazie. Ecco. La sua capacità di raccontare mi sorprende sempre, mi sorprende sempre. Sono ancora qua, adesso sto andando verso il centro di 2 anni, non so se ci arrivo, comunque se arrivo. Speriamo. Sì, ma con questa verba. Adesso la Valeria la accompagna, prego, ci rimettiamo qui. Ecco, ci voleva proprio il racconto del protagonista, perché arricchisce, no, la presentazione di questo libro in maniera davvero unica. Torniamo allora all'ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Io vorrei chiedere se c'è in qualche modo un filo che unisce i vari libri e le varie cose scritte da Filippo Boni. Mi è piaciuto molto il racconto di questa moneta, del bisnonno, perché spesso quello che noi facciamo nella vita, anche le scelte professionali, sono orientate da episodi che hanno le loro radici nella nostra storia familiare, no? Nelle nostre, nostri affetti, ecco. Vedi, mi alzo in piedi così mi vedono meglio. Io sono molto convinto, da una grande importanza agli oggetti, non a qualsiasi oggetto, ma credo che ognuno di noi sia legato in qualche modo anche a una stringa di una scarpa, a un bottone, a una piccola moneta, piuttosto che a una fotografia, a una cartolina che magari tiene da qualche parte, la custodisce. Sono dei prolungamenti di noi stessi, gli oggetti. Così per me lo fu quella moneta che ancora oggi detengo all'interno di una scatola. Pensare ai giochi del destino. All'origine degli eroi di Via Fani, che è il mio altro libro, c'è un'altra moneta che mio papà, anche lui purtroppo scomparso molto giovane, a 55 anni, mi regalò negli anni 2000. A metà degli anni 2000, mentre io facevo l'università, rinvenni lui, che era un amante in qualche modo degli oggetti, gli dava una grande importanza simbolica, rinvenni all'interno di una scatola di biscotti Lazzaroni un articolo di giornale del 16 marzo del 78, l'edizione straordinaria della Repubblica, dove c'erano i 5 uomini della scorta di Aldo Moro in fotografia. E c'era scritto estate 77, 16 marzo 1978, con la calligrafia di mio padre, per non dimenticarlo, per non dimenticarli. Così chiesi più volte a mio papà che origine avesse quel foglio, quell'appunto con quella moneta, perché appiccicata a quella fotocopia c'era una moneta da 50 lire del 1967. Non mi ha mai detto per anni che origine avesse quel biglietto. Poi nel gennaio del 2009, il giorno del suo compleanno, il suo ultimo compleanno sulla Terra, il 7 gennaio del 2009, 11 anni fa, per caso, parlando, ormai purtroppo la sua malattia era arrivata, non c'era più un punto di ritorno, diciamo, positivo, parlando ci imbattemmo in un articolo di giornale. Valerio Morucci, non so se lo ricordate, è un brigatista, un uomo delle Brigate Rosse presente in via Fani, della colonna romana delle Brigate Rosse. Il 16 marzo del 78 venne invitato all'interno di un'università a parlare e scoppiò una bagarre sui giornali, una polemica. Si dà voce sempre ai terroristi, non si dà mai voce agli ultimi, alle vittime, ai familiari delle vittime. E così che mio papà mi disse: ma ti ricordi di quell'articolo che più volte mi hai chiesto che origine avesse quella moneta? Ecco, mi disse: guarda, non ti ho mai detto la ragione per la quale io ho conservato quella moneta con quell'articolo, perché avrei voluto regalartela alla fine del tuo percorso di studi. Purtroppo però ero malato e mi auguravo di poterti regalare questo biglietto quando sarei guarito. Avrei voluto fare un viaggio importante con te. Quella moneta, coniata nel 1967, apparteneva ad un uomo che è morto la mattina del 16 marzo in via Fani. Era il capo scorta di Aldo Moro al suo primo giorno di lavoro. Si chiamava Francesco Zizzi e si trovava a Roma, era un pugliese, un poliziotto, si trovava a Roma non per, come dire, dovere di lavoro, ma perché era poliziotto alla questura di Parma, ma era fidanzato con una ragazza di Latina che avrebbe dovuto sposare da lì a tre mesi. E tutti i fine settimana nell'anno 77 lui tornava a casa dalla sua fidanzata a Parma e passava il fine settimana con lei. Alla fine dell'agosto del 77 mio papà si trovava in autostrada, mi raccontò questo in quel momento, il 7 gennaio del 2009, e rimase in panne in autostrada nel cuore della Toscana, in Corsia Nord, vicino Firenze, con la sua macchina, una 126 color crema. Fu così che si fermò un'auto dietro di lui, scese un ragazzo, in borghese, più o meno avevano la stessa età, con una camicia bianca, un paio di jeans, e gli disse: vuoi un passaggio? Anche lui aveva i baffi neri, i capelli neri, anche mio papà era così. Mio papà l'anno successivo si sarebbe sposato. E gli disse: guarda, ti do un passaggio. Lui disse: sì, è un grande caldo, io non riesco ad andare alla colonna dell'SOS, magari se mi fai questa cortesia. A quei tempi non c'era ovviamente il cellulare, non c'era niente di tutto quello che è la tecnologia odierna, e quindi c'erano solo le colonie dell'SOS. Gli dette un passaggio, arrivarono al casello dell'autostrada di Firenze Sud e lui gli disse: guarda, io mi chiamo Francesco Zizzi, ti lascio qualche gettone per telefonare, se vuoi chiamare a casa e ti lascio il mio indirizzo. E lui gli raccontò in quel tragitto che si sarebbe sposato con una ragazza di nome Valeria che abitava a Latina, che però era troppo distante da Parma e che quindi tutte le volte lui doveva fare andata e ritorno dalla questura di Parma a Latina tutti i fine settimana, e in quel momento stava tornando proprio da Latina per tornare al lavoro. Mio papà tornò a casa e nel biglietto dell'autostrada scrisse questo appunto: estate 77, Francesco Zizzi e il suo indirizzo. La mattina del 16 marzo del 78, quindi alcuni mesi dopo, riconobbe quel ragazzo guardando il telegiornale, vedendo che era stato massacrato dagli uomini delle Brigate Rosse. Così, preso da un momento di sconforto, andò a ricercare quel biglietto che aveva messo da parte, e nel pomeriggio, quando uscì l'edizione straordinaria della Repubblica, dove si mostravano fotografie scioccanti che in qualche modo ci hanno cambiato la vita, hanno cambiato la vita al corso della nostra Repubblica, ritagliò i volti di quei cinque uomini e li mise da parte, insieme a quelle 50 lire che erano nel mucchietto dei gettoni che gli aveva dato Francesco Zizzi. E lui mi disse: appunto, io non credo che tornerò, che riuscirò a partire da questo viaggio con te. Il mio regalo era andare a ricercare la fidanzata di Francesco Zizzi, non so se è sempre viva, sono passati tanti anni, era il 2009, erano passati 31 anni, quindi vorrei che un giorno tu lo facessi per me. Così nel 2016 io mi sono messo in viaggio e ho ricostruito le vite dei cinque agenti della scorta di Moro, ma soprattutto anche dei loro familiari, che per 30-40 anni sono rimasti completamente nel silenzio e nell'oblio. E alla fine, su una spiaggia, nell'estate del 2016, il 21 luglio, ho ritrovato Valeria, quella donna che doveva diventare la moglie di Francesco di lì a tre mesi. Erano due ragazzi di 30 anni e che in qualche modo quel giorno l'orologio del destino ha fermato la sua vita. Lei non si è più sposata, lei è rimasta in qualche modo una vedova, seppur non da sposata, perché è mancato veramente un soffio il giorno del loro matrimonio. Così ho restituito quelle 50 lire a quella donna e lei mi ha mostrato, insieme alle sorelle di Francesco Zizzi, che ho fatto rincontrare con Valeria dopo 40 anni, una valigia bianca che ha portato a quell'incontro, all'interno della quale aveva conservato, nel corso di tutti i suoi 40 anni successivi, la sua seconda non vita, perché lei è morta, anche lei quel giorno non ha fatto figli, non si è risposata, è rimasta chiusa a chiave in una stanza. Ecco, lei ha portato le partecipazioni di nozze che lei e Francesco Zizzi avevano fatto, i documenti per il preventivo del ristorante, le cartoline, le sue camicie, le sue ultime camicie, gli ultimi regali che lui gli aveva fatto. Insomma, tutto quello che lei aveva di lui lo aveva chiuso a chiave in questa valigia e disse: io ero straconvinta che in qualche modo non avrei mai potuto superare questo momento, quella valigia ero straconvinta che non l'avrei mai più aperta nel corso della mia vita. Invece ho avuto questa opportunità, queste 50 lire sono diventate una chiave e in qualche modo ho permesso di aprire quella valigia, superare quel grande lungo lutto e farli abbracciare con le famiglie. Ecco, io do una grande importanza agli oggetti, perché a volte gli oggetti più impensabili diventano delle chiavi che ci possono in qualche modo far uscire anche da un momento di dolore e riscoprire il vero senso della bellezza. A proposito di questo, prima Bruno raccontava un momento molto importante, focale della sua esperienza, Bonatta che muore fra le sue braccia nel gulag di Radan Tambov, questo suo compagno di viaggio, di tragedie, di orrori, che insieme a lui, insomma, passa un periodo veramente difficile, veramente duro, drammatico per certi aspetti. E poi alla fine gli muore fra le braccia e gli dice che se avrai la forza un giorno torna a casa e vai da mia moglie e racconta a mio figlio di me mentre muoio fra le tue braccia. Il corpo di Bonatta credo che sia insieme a quello di decine, di migliaia di italiani che non sono mai tornati a casa, che sono ancora sepolti sotto le betulle e la neve di quei luoghi. Ecco, e ieri è successa una cosa molto bella che voglio condividerla con voi. Ecco, ieri per caso, per puro caso, il figlio di Bonatta mi ha scritto una mail. E sono rimasto molto colpito perché io non sono riuscito a mettermi in contatto con lui, perché con Bruno, quando abbiamo fatto il nostro libro, non avevamo trovato il numero di telefono giusto, perché spesso chiama lui Bruno e Bruno ha un numero, ma lui nel frattempo quel numero lo aveva cambiato, quindi io telefonavo a un numero che in realtà scompariva, non rispondeva nessuno. E ieri, dopo un po' di ricerche, lui ha cercato me, pregandomi: Bruno, incredibilmente lui non sapeva che noi saremmo stati insieme oggi, sapeva che io ero in Toscana e tu in Trentino, di leggerti una lettera. E quando io gli ho detto, poi mi ha messo il suo numero di telefono, che oggi eravamo insieme, mi ha chiesto di leggervela a tutti, così condividiamo questo momento che credo sia molto bello. Caro Bruno, ho appena finito di leggere l'ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Sono Riccardo Bonatta, quello di Bergamo, sì, il figlio del tuo compagno di patimenti in terra di Russia. Pur essendo consapevole che ormai il tempo ci sta travolgendo, mi sono riconosciuto tra le righe di questo libro. Ho riconosciuto mio papà, come ho riconosciuto me stesso in quello che venne la prima volta ad incontrarti con il camper tanti anni fa a Bolzano. Mi sono emozionato dalla prima pagina, quando mi hai parlato di tua moglie, fino all'ultima, con quella del nostro primo incontro. Posso dire che ho conosciuto molto di mio padre, con le tue parole, e purtroppo solo ora posso comprenderle, perché quando si è piccoli non si capisce nulla di quello che succede e che ti raccontano. Mi riferisco alle parole di mia madre. E quando si è giovani si è troppo spensierati per essere sovrastati dai problemi, fortunatamente. poi con l'età diventiamo più sensibili alle emozioni e alle comprensioni. Ora, da questo libro ho imparato a conoscere la triste storia degli ultimi mesi e minuti della vita di quel genitore che non ho mai conosciuto, e l'unica soddisfazione, se così si può chiamare, è quella di aver saputo che non è morto solo, come un cane, ma in compagnia di un amico come te, che fra l'altro già avevi i tuoi guai, ma hai saputo supportarlo, carezzarlo nei suoi ultimi momenti e lo hai assistito con amore fino all'esalazione dell'ultimo respiro. Mi ha emozionato le lacrime il nostro abbraccio di 3 anni fa, immortalato dalle foto di mia figlia in occasione dell'incontro a Bolzano, l'ultimo. Era l'abbraccio che ti aveva chiesto di farmi in punto di morte mio papà, se mai mi avessi incontrato alla fine della guerra. Non ti nascondo, e non ho certo vergogna di dirlo, non sono riuscito a trattenere le lacrime ancora mentre finivo di leggere questo libro. Le parole ormai fuggono come il vento, mentre gli scritti rimangono, e quando leggevo i tuoi scritti diverse volte, che dicevi che al figlio avevi tenuto nascosta la vera verità sulla morte del papà per non farlo rimanere male, avevo pensato a tutt'altro, mi ero immaginato che fosse perduto fra le langhe e la neve della Russia, per esempio, che avesse finito i suoi giorni in uno di quei lunghi trasferimenti al freddo, al gelo e in mezzo alla neve. Invece Bruno, mio papà è morto fra le tue braccia, ed io di questo sono grato a Dio. Ci vedremo prestissimo, ti abbraccio forte, Riccardo Bonatti. A me piacerebbe finire così questo incontro, perché credo che questa sia la fine giusta e bella. Credo che nessuna domanda da parte del pubblico potrebbe, come dire, aggiungere qualcosa. Per cui io ringrazio prima di tutto Bruno Bertoldi, ringrazio però anche molto Filippo Boni, perché tutti e due ci hanno fatto veramente emozionare. E vi ringrazio tanto e vi auguro una buona serata. Allora, grazie Floriana, sei sempre meravigliosa. Posso lasciargli che... Grazie cara, sì, ma figurati. Se schiaccio stop si salva, è buona, giusto? Speriamo.